Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Idina! Era con questo stato d'animo fiducioso e forte che l'aveva chiamata per chiederle un parere. Lei che sembrava aver buon gusto e seguiva la moda, siccome Adelaide Roini, dalla quale era passata dopo aver salutato Annita, le aveva detto «Fai tu, mi fido». Tieni presente che ho soprattutto bisogno di articoli di guarnizioni, cose minute, che vadano bene sui cappelli e sui vestiti, viole, margheritine, ciclamini, vedi tu. Inventali, affidati alla fantasia. Ma ne ho bisogno subito, mettiti sotto, siamo in piena stagione. E poiché era una giornata in cui le cose andavano tutte per il verso buono, se ti serve un anticipo, dillo. Ti serve? E per non apparire strafottente, mi basterebbero 3 lire, aveva detto. Prima di tornare a casa, dirottò su via Decimatori. Era tanto tempo che Metello non provava la soddisfazione di togliere l'olio a un fiasco intero, di quello buono, che secondo lui ci aveva soltanto i chiti. Ersilia era certa di trovare il marito in casa e di fargli questa sorpresa. Intanto il rosolio le aveva messo sete, ma fermarsi a bere nella mescita a chiti, una donna sola, o entrare in un caffè non stava bene. Ma al banco dell'acquaiolo di Piazza Santa Croce, dove la conoscevano, ci comprava sempre il gelato da un soldo per liberino, lì poteva. Chiese un bicchier d'acqua con lo schizzo d'anice. Costava gli stessi 5 centesimi e lo beve d'un fiato. Infine aveva allungato il passo per arrivare presto da Metello. Si sentiva in colpa di essersi così attardata. Avrebbe aperto la porta e gli avrebbe presentato il fiasco di vino. «Guarda qui che boccio, cavaliere!» gli avrebbe detto. Trovò la casa vuota. Metello era già uscito. Si dispiacque come, diciamo, le fosse scomparso qualcosa che sapeva di possedere, ma subito si consolò. Gli farò festa più tardi, quando torna a cena. Pensava di fargli trovare la pasta asciutta e la carne e le ciliegie di cui era ghiotto. Gliene era rimasta la voglia, soleva dire, fin da bambino, a furia di vederle maturare nell'orto della fattoria e di non averle mai potute assaggiare. Nel frattempo, preparando la cena, avrebbe riflettuto su cosa fare per la vedova Roini. Aveva pensato a dei fiori di campo che avessero la forma di papaveri, ma che invece di essere rossi o gialli, fossero un po' gialli, un po' rossi, un po' celesti, un po' rosa, e che in ciascuno la corolla fosse di un colore sempre diverso da quello delle foglie. Si trattava, volta per volta, di indovinare l'intonazione dei colori. In un papavero rosa, per esempio, ci stava bene la corolla azzurra. E poi... Per questo si era affacciata alla finestra e aveva chiamato Ida, che aveva buon gusto, e perché in due ci si consiglia meglio che da soli. «Idina! Oh Ida!» Udì finalmente la sua voce, e subito lei apparve al davanzale soprastante. Si teneva una mano al collo della vestaglia, ed era mezza spettinata. Oh, «Mi ero distesa sul letto, e con quest'afa mi è venuto un sopore!» «Posso salire un momento da lei? Vorrei chiederle un parere!» «No, mi aspetti, scendo io! Il tempo di infilarmi un vestito!» Ersilia scosse il capo. Quella, pensò, basta abbia un pretesto per uscire di casa, sembra aver a noia tutto quel che è suo. Traversò la cucina e andò ad aprire la porta e a lasciarla socchiusa per la bella Idina. Le parve di udire un fruscio lungo le scale. Non volendo si sporse sul pianerottolo. Restò basita. Fu, avrebbe detto in seguito, come se d'un tratto mi si fosse gelato il cuore. Nell'uomo che scendeva in fretta, goffamente, cercando di mantenersi sulla punta dei piedi, come un ladro, e che ora stava per raggiungere la porta di strada, aveva riconosciuto Metello. Tutto accadde nel giro di alcuni secondi. Ella fece per chiamarlo. «Metello!» Le sue labbra si mossero, ma non uscì la voce. Corse alla finestra. Egli non era più sulla strada. Pensò di essersi sbagliata, che si trattasse veramente di un ladro, o di un amante dell'Idina. Dunque la riteneva capace? Oh... Era Metello e come. Sortiva adesso sulla strada, rasente il muro, senza voltarsi indietro, girando apposta dietro le diligenze, come un ladro davvero. Era sparito. Lei restava piegata sul davanzale, si sentiva un pugnale infilato in petto, uno dietro la schiena, e le sembrava di non potersi più muovere di lì. Invece, com'è facile riaversi e prendere una decisione e cambiar faccia tutto in un momento. È facile come deve essere facile uccidere nel momento in cui si uccide. «Cosa mi racconta?» disse entrando Lidina. «Volevo chiederle un consiglio su certi fiori che dovrei fare. Ha avuto un'altra ordinazione?» «Già, pensavo... mi ascolti bene». Le spiego la sua idea dei papaveri rosa, verdi, crema, anche neri. Intanto si era fatto scuro. Era andata in camera e, rientrando col lume acceso, aveva scoperto Ida che si guardava nel vetro della dispensa, come chi teme di trovarsi in disordine furtivamente si ricompone. «Che ne dice? Sarà un successone! Perché non mi dà una mano ad accozzare più tinte possibile?» Si imparano mille cose in un istante. Non occorre essere stati a scuola quando la vita ti colpisce a tradimento con le sue cattiverie. Basta avere una spina dorsale che ti mantenga in piedi. Ersilia ne faceva in quel momento una dolorosa esperienza. La sua lealtà, il suo coraggio, la sua abitudine di affrontare a viso aperto le ingiustizie e i dolori che non le erano stati risparmiati, alla resa dei conti l'avevano sempre trovata vincitrice, o comunque preparata a subirne l'irreparabilità. Se questo mondo è una giungla, ella era nata e vissuta in quella piccola foresta particolarmente intricata che era San Frediano. Non di meno c'era questa sua naturale solarità, questa oasi, e questa radura del cuore che ogni volta la illuminavano e le permettevano lo scampo. La stessa disgrazia che le aveva rapito il padre, ad esempio, e che aveva rappresentato la congiuntura più sofferta e drammatica della sua vita, aveva favorito il suo incontro con Metello. L'eterna forza dei semplici di affidarsi e nello stesso tempo di non arrendersi al proprio destino. Male non fare, paura non avere. La sua fiducia nella vita, infine, aveva sempre trovato un esatto rapporto nella spontaneità, nella chiarezza, diciamo, e nella costanza dei suoi atteggiamenti e dei suoi affetti. Ora, per la prima volta, era stata colpita alle spalle, e non per questo era crollata. Ma la sorpresa le aveva inibito una subitanea ribellione. Lo stupore aveva sopraffatto l'offesa. Forse da questa esperienza ne sarebbe uscita più amorosa, più comprensiva, più saggia, ma definitivamente disincantata, meno franca, meno spontanea e cordiale. Questo avvenimento, che d'ora in avanti l'avrebbe costretta a diffidare del proprio istinto, a cautelarsi contro l'intrigo, segnava inconsciamente il suo congedo spirituale dalla giovinezza. Già le era bastato un istante per possedere compiutamente l'arte della dissimulazione, questo ripugnante magistero a cui gli uomini sembrano aver affidato l'equilibrio dei loro rapporti. «Sia buona, mi dedichi qualche minuto, ma anche un'ora, ma anche due, sapessi come mi diverto un lavoro di questo genere?» La cannella dell'acquaio gocciolava, non si sentiva, ma lo stesso Ersilia si alzò e la chiuse. «Ha visto se quando ha avuto bisogno l'ho cercata?» Ora la voce, che pochi minuti prima, per chiamare Metello, le era venuta a mancare, risuonava calma, pausata. Recitare la commedia e caricare di familiarità le proprie espressioni, disporsi all'adulazione, perfino, diventava lo stesso facile, un gioco, doloroso, tuttavia. «Lei che ha tanto buon gusto, lei che dalla sarta sfoglia i figurini», le diceva, e la seguiva in ogni suo gesto, in ogni batter di ciglia, in ogni moto delle mani, spiando il suo viso, cercando il suo sguardo per completare, con tante piccole prove, la certezza che aveva di trovarsi di fronte all'amante di Metello. E nello stesso tempo, ancora confusamente, per farsi una ragione di come ciò fosse potuto accadere. «O da che ora si era buttata sul letto? Oh, saranno state le 3!» Allora ha fatto una bella dormita. Il dominio di sé non accendeva di immagini la sua fantasia, la sua mente non si esaltava. Era un dolore tutto fisico che la possedeva, come se materialmente, questa era la sensazione, il cuore non fosse più dentro di lei e al suo posto. Il segno della vita si fosse stabilito alle tempie che le martellavano all'unisono, tanto che, sedutasi e fingendo un atteggiamento naturale, sorridendo, vi premé sopra la punta delle dita. La fissò a lungo mentre parlava, protetta dal riflesso del lume. Ida, la bell'Idina. Il suo viso era stanco, appena incipriato, un giro di piumino dato in fretta. Risaltavano anche più nitide le ombre sotto gli occhi. Si accorse che le mancava un orecchino, e calma, trattenendosi le tempie, «Sto per darle un dispiacere», le disse. «Sa che ha perduto una buccola?» La vide trasalire un attimo, che subito, ma toccandosi prima l'orecchio dove la buccola c'era, rispose «Sì, lo so, mi si è rotto il fermaglio mentre dormivo!» Ora Ersilia fu sul punto di gridare lo sforzo che fece per dominarsi le serrò lo stomaco. Non sarebbe più stata capace di continuare la commedia, era una principiante dopo tutto, e il suo spirito non era quello di un animale che si rintana leccandosi la ferita. Ma arrivò Cesare, annunciandosi col solito fischio dalla strada. Ida si alzò, insolitamente sollecita per andare incontro al marito. Metello rientrò un'ora dopo ed Ersilia era uscita e tornata nel frattempo. Aveva comperato la pasta, le ciliegie, acceso il fuoco e apparecchiato. Ne aveva dimenticato di fermarsi dal tabaccaio. In mezzo alla tavola, sulla tovaglia di bucato, c'era il fiasco del vino, col batuffolo di stoppa infilato nella paglia. «È più che una sorpresa», egli disse. «È una vincita all'otto. Se lo sapevi, invitavo del buono». Era, come sempre, padrone di sé e pronta alla battuta. Si informò di Libero e le parlò dello sciopero. «Se non arrivano questi soldi della sottoscrizione, le cose pigliano una brutta piega», disse. «Con la fame non si ragiona. Ce n'è più d'uno che mette in discussione di tornare sul lavoro. E quella Minta in specie, lui no, lui è per continuare, ma promette poco di buono. Alla bava alla bocca. Stasera siamo dovuti scendere di corsa, io, Giannotte e il tedesco. Aveva preso di petto Lindo e lo sbatteva contro il muro». «O Lindo, perché non si è fatto più vivo? Potevi portare lui a cena, anche se non sapevi che c'era questo rialto». «È voluto tornare a Rincine. C'aveva soldi per il treno, non so chi gliel'abbia dati». Parlava come ogni sera. Non era né distratto né accigliato. Pensava proprio a quello che diceva. Era un innocente. Non aveva né le mani sporche di sangue né il vestito strappato. Per via del caldo si era messo in camiciole e mutande. Era sbarbato, e bello e forte come lei lo conosceva. Mangiava con gusto, schioccando la lingua dopo bevuto il vino. Le propose di uscire appena avessero cenato, di andare a prendere un po' di fresco lungo l'Arno. «Ci si siede una mezz'ora sulla spalletta, si fa quattro chiacchiere se passa qualcuno. Magari si arriva fino a San Frediano, si guarda come se è addormentato il bambino». «Debbo mettermi a lavorare», lei disse. «Sabato voglio consegnare un campionario alla Roini». «Va bene, resta a farti compagnia». Nemmeno si accorgeva della sua mestizia. Per quanto ella se lo proponesse, non le riusciva di sorridergli, ma non covava dell'animosità. Lo guardava e non riusciva a giudicarlo. E se si fosse sbagliata? Se non fosse stato Metello l'uomo che aveva visto trampolare giù per le scale e poi andarsene sfruttando il riparo che gli offrivano le diligenze? Certo, sul suo viso, l'ipocrisia che era stata sicura di leggere su quello di Ida non la ritrovava. «Piuttosto», gli disse, «dovrò picchiare fino a tardi col mazzuolo, non potrai dormire». «Mi conosci ora? Quando ho preso sonno non mi svegliano nemmeno le cannonate». E aggiunse, e la fece sussultare, «nel caso darai fastidio agli inquilini». In quel momento Cesare chiamava dalla finestra. «A bomba!» disse Metello. Ersilia era al davanzale e l'ascoltava. «Ida si scusa!» disse il mosaicista. «Una mano al suo lavoro verrà a dargliela domattina. Stasera abbiamo deciso di andare al caffè delle Colonnine. Ida ora è di là a vestirsi. Venite con noi, ci tenete compagnia?» Ersilia declinò l'invito. «Ho fatto bene?» chiese a Metello e sparecchiava la tavola. Ci lasciò sopra il fiasco e un bicchiere. «Non bene, benone!» egli disse. Stava accendendo una cicca di sigaro. Si abbrustoliva i baffi suo malgrado. Ecco, per un attimo lei sorrise. «Già che c'eri potevi farmi chiudere in bellezza», egli disse. Ersilia mise la mano nella tasca del grembiule e ne cavò due mezzi toscani. Metello le carezzò la mano con cui glieli porgeva. «Li ha provati, se tirano, ci ha soffiato!» «Sì, e mi è rimasto un bruscolo in gola per mezz'ora». Riordinata la cucina, ella si sedé davanti al ciocco e incominciò il suo lavoro. Lui aveva ripreso il fascicolo di critica sociale. «Questo Turati», esclamò, «è un grand'uomo, ma scrive troppo complicato». Si versò un altro mezzo bicchiere e scostò il fiasco. «Toglimelo davanti», disse, «se vuoi che basta anche per domani». Poi, «quando viene a letto?» le chiese. «Stasera non c'è nemmeno il bambino». E lei, inspiegabilmente anche per se stessa, non provò ripugnanza a queste parole, ma della commozione piuttosto, il suo solito pudore. «Va a letto, vai», gli disse. «Ci aspettano tanti giorni senza il bambino». E siccome Metello rimaneva sulla soglia della camera, perché non le si avvicinasse, battendo il mazzuolo sullo stampino, e poi aggiunse, «stasera non sarebbe possibile in ogni caso». Lo guardava con la coda dell'occhio. Egli si passò l'indice della destra sotto il naso, ma non le si avvicinò, non si dimostrò incredulo, soltanto le sorrise e le dette la buonanotte. Camilla restò alzata fino a tardi, picchiando col mazzuolo sugli stampini, accumulando le sue foglie di papavero di tutti i colori e proibendosi di pensare. Sulla strada si spensero le luci e il suono dei mandolini. Nitrivano i cavalli dentro la rimessa. I colpi del mazzuolo ebbero un eco sempre più forte. Ma non furono i lombardi a reclamare, bensì qualcuno dalle finestre di rimpetto. «Non sarebbe l'ora di smetterla, no?» Chissà perché ebbe un tuffo al cuore e si spaventò. Metello dormiva del suo sonno greve. Lei si coricò al buio, rimanendogli apposta distante, tutta sulla porzione di letto dove solitamente riposava il bambino. Fu la sua volta di vegliare fino all'alba. Sentiva il respiro di Metello e la sua presenza sotto il lenzuolo, e malgrado l'allucinazione che la notte porta alle menti eccitate, non ancora ella chiamava in causa il marito. Nessun risentimento la muoveva contro di lui. Già fin dal primo momento ella non aveva dubitato che tutta la responsabilità non fosse Vilda. Lei l'aveva tentato. Lei gli si era offerta. Lei? E quando? Da quanto durava? Ma nemmeno questo le premeva conoscere. Piuttosto si chiedeva come fare perché la loro relazione, se davvero era diventata tale, finisse. Come comportarsi? Affrontare Metello? No. Egli aveva oltretutto altre cose a cui pensare. Non potevi innervosirlo con una scenata di gelosia. Come se, malgrado il suo da fare, il suo impegno nello sciopero, egli non avesse trovato il tempo da dedicare al suo adulterio e per rifugiarsi in sua assenza tra le braccia della bella Lidina. In definitiva, non era da Metello che si sentiva tradita. Questa, che un giorno egli avrebbe potuto tradirla, era una circostanza su cui non aveva mai abbastanza riflettuto, ma che dal momento che si dava, rientrava nella logica delle cose. Un uomo la sua donna l'ha già tradita 10 o 100 volte il giorno in cui la sposa. Una donna sa che il suo uomo non sarà mai completamente suo, perché è stato di altre prima di essere suo. Il passato non conta, è un modo di dire. Lo si dimentica o lo si ignora, ma una cosa che è successa non la si cancella mai. Del resto Metello stesso le aveva parlato di Viola, di Ilse, delle ragazze che aveva avuto a Napoli quando vi era stato militare, e di una figlia di pescatori con cui aveva scherzato al domicilio coatto. Le avesse detto tutta intera la verità o no, c'erano state altre donne nella sua vita. Forse meno di quante egli avrebbe voluto lasciar capire, dal momento che prima di conoscerla, anche il suo lontano incontro con Annita lo considerava un'avventura. Non c'era nulla di male, è di tutti gli uomini che la si ripeteva. E quante donne anche vanno all'altare con un'esperienza che non è solo di parole? Ci si sposa, appunto, incontrato che si abbia l'amore, e loro era stato il vero amore, per staccare col passato. Soltanto da quel momento un uomo è tutto della sua donna, sta a lei saperselo trattenere. Ora, se Metello l'aveva tradita, significava che in qualche modo lei, Ersilia, gli era mancata. E poi, egli era il suo uomo, nulla al mondo, nemmeno un suo ripudio forse l'avrebbe persuasa che non le volesse sempre bene. Le era impossibile pensare e persino supporle che ora egli fosse capace di trasferire il suo affetto su un'altra donna. Su una donna come Ida, poi. Erano stati il suo profumo, i suoi gesti, le sue bambolerie, le sue mani curate, il suo vestito lilla di maggiorenne e le sue arti di gattina, di esosa ad attirarlo. A furia di disistimarla, gli era entrata in simpatia. Era dunque con Ida che andavano regolati i conti, senza scalpore, senza tragedie. Il modo di risolvere la questione tranquillamente sapeva qual era, infallibile, non occorreva ripeterselo. Oppure lei non era più quella sanfredianina tutta particolare che si diceva. Ma ci voleva una prova, la certezza ultima, lampante, che tutto ciò era vero, da poterle, cominciando, chiudere la bocca alla bellidina, che altrimenti io, ma Ersilia, o questa poi, avrebbe fatto la dirata, l'offesa, avrebbe chiamato Metella a testimoniare. No. Ella si ripeteva, e ora s'erano svegliate le rondini, il bacalaro lavava le diligenze e strigliava i cavalli sulla strada. No, Metello non ci doveva entrare. Prese sonno, che stava arrivando il lattaio. Ersilia si destò ad un'ora per lei fuori del normale, anche se aveva dormito appena 3 ore. Non le sembrò di aver sognato. Quel pomeriggio di martedì, così felicemente avviato, tanto da farle dire ad Annita, quando si erano accomiatate sul ponte alla Carraia, «Il sole sembra che tramonti, ma non tramonta mai», e poi conclusosi con la scoperta del tradimento da parte di Ida, e la lunga notte angosciosa non era stato un incubo della cattiva digestione. Al contrario, come se nel sonno i suoi pensieri avessero continuato a svolgersi, adesso la soluzione le sembrava persino troppo semplice. Avrebbe dovuto, per procurarsi quella prova e senza mettere in mezzo né Metello né nessuno, seguire i movimenti dell'Idina, non perderla mai d'occhio, soprattutto quando Metello fosse stato fuori casa. La camera era in penombra. Metello si era alzato, aveva chiuso le imposte perché non la disturbasse la luce. Sorse dal letto in sottovesti a piedi nudi, andò in cucina. Le era improvvisamente balenato l'idea che, siccome Ida, la pinzocchera, era solita prendere la messa la domenica mattina, questo poteva essere un pretesto per incontrarsi con Metello chissà dove. Lui era invece seduto al tavolo, era fiducioso e di buon umore come la sera prima, mangiava. «Mi sono fatto un po' di panzanella, avevo fame, come se ieri sera non fosse andato a letto digiuno». Tirò il cassetto della dispensa e prese una forchetta, avanzò sul tavolo la zuppiera verso di lei. Era la colazione loro solita, appetitosa, le sarebbe costato un sacrificio rifiutare. «Fino a che ora sei rimasti in piedi?» «Saranno state le 3. «Oggi però è festa, ne farai a meno, la Roini può aspettare». La guardava, spettinata com'era, e per via della luce che entrando in cucina le aveva ferito gli occhi, il suo volto era atteggiato a un involontario corruccio, aveva qualcosa di bambinesco e di rissoso. Ella avvertì il suo sguardo, e istintivamente si tirò sulle spalline della sottoveste che si erano allentate e le lasciavano scoperto il seno. Due mammelle, turgide, di donna ancora giovane, in fiore, si profilavano ora anche più pesanti. I grossi capezzoli premevano la sottoveste che, lei trovandosi seduta, le fasciava il torace, le modellava i fianchi e dava un risalto alla gola medesima, alle braccia tutte nude, agli omeri torniti sotto i quali sbucavano i cespi neri delle ascelle. Egli la considerava, e la vedeva giovane, stanca di sonno, una cosa sua. Forse mentalmente si malediva per averla così ingiustamente tradita, e allorché lei gli rispose: «Ma siamo noi che non possiamo aspettare. Ti sembra che possiamo aspettare?» «Già», egli sospirò. «Non mi sono ancora lavato il viso», disse. Quindi rimase in casa tutta la mattina. Ersilia si era recata a far la spesa, e tornando aveva visto Ida e Cesare voltare l'angolo di via Michelangelo, essa, nel suo abito lilla, con la paglia e l'ombrellino aperto per ripararsi dal sole, la delicata. Metello leggeva, seduto al tavolo e reggendosi la testa. Ersilia si mise attorno ai fornelli. Lui esclamò: «Ora ho capito!» «Cosa hai capito?» «La teoria della forza lavoro!» «Che?» «Metti che un operaio, lavorando 10 ore, guadagni 4 lire. Quello che lui ha prodotto, il padrone lo rivende a 100, togli 50 lire del costo del materiale e delle altre spese. Praticamente il lavoro fatto unicamente da quell'operaio ha fruttato al padrone 10 volte di più che all'operaio». Ella rimase col soffietto in aria. «È una cosa che ti torna nuova?» gli chiese. «No, ma qui c'è la spiegazione». «Ma spiegazione di che?» «Scientifica», lui disse e ripeté, «della teoria della forza lavoro». «Sarebbe a dire?» «Vuoi che ricominci da capo? Per l'amor di Dio non ti venisse l'idea di dimostrarmi che l'aceto si fa col vino». Egli scosse la testa, sorrideva. «La verità», disse, «è che certe cose, quando le trovi scritte e dimostrate, anche se le conosci per esperienza, assumono un altro aspetto. Le parole stampate non sono mai come i discorsi che facciamo noi. Chi li scrive ci mette sempre un po' di magia. Ti insegnano a ragionare su un argomento, e quello che magari pensavi di già ti sembra anche più vero». «Ma è sempre tutta teoria». «Come se la teoria non tenesse conto della pratica. Che socialismo sarebbe altrimenti? Marx...» Ersilia lo interruppe. Si divertiva a contrastarlo, come sempre, e perché a lei faceva piacere di capire le cose che lui capiva. «L'avrei voluto vedere, Marx, a mettere un mattone accanto all'altro come te. Per prima cosa ci sarebbe dovuto tagliare la barba. Marx metteva un ragionamento accanto all'altro, e le sue idee dureranno più di tutti i mattoni messi insieme». E gli disse: «Oh, Metello», lei esclamò, «vuoi togliere i mestieri a pescetti?» Era, ancorché ironico, un affettuoso complimento che essa gli faceva. Egli chiuse il fascicolo della rivista, si grattò sulla pancia. «Mi fa dire certe mischerate», concluse, e ripeté: «La verità è che se domani non si spartisce qualche soldo, una 30 perlomeno son decisa a tornare sul lavoro. Basta diano l'esempio, gli altri chi li regge? Gli vuole dar torto? Sono tutti più indebitati alla fame di noi». «Noi alla fame non ci siamo». «Perché tu ti sacrifichi. O tu o io non è la stessa cosa?» ella gli chiese, e lo guardò negli occhi. Era un giorno come gli altri, una festività a mezzo della settimana, non c'era nulla di cambiato. Forse ho preso un abbaglio, ella si diceva, ma quando Metello le mise le mani sulle braccia, trovò il modo di sottrarsi alla sua effusione. Pranzarono, lei rifece in fretta la cucina, e senza che Metello le rinnovasse l'invito, fu lei a proporre, malgrado l'ora bruciata, di andare subito dal Libero, in San Frediano, dove si trattennero fino a sera. Lui fece la partita con Giannotto e altri amici ai tavoli della Bettola, sul marciapiede di Via del Leone. Lei, con sua madre, con Luisa e Annita, condussero i ragazzi alla giostra che era a Porta Romana. Poi videro i fuochi dall'altezza di Ponta alla Carraia. Rientrando, trovarono un biglietto che Cesare aveva introdotto sotto il loro uscio. «Sono le 9, vi abbiamo aspettato fino a questo momento». «Già», Metello disse, «me ne ero dimenticato, stamani tu eri a far la spesa, ci avevano invitata ad andare con loro. Prima dei fuochi volevano passare da Piazza Barbano, dove c'è quello che cammina sulla corda attraverso tutta la piazza e senza rete. Ti dispiace?» «No, no», ella si era affrettata a rispondergli. «Io, per la verità, ci sarei anche andato volentieri a uno spettacolo, ma con le preoccupazioni che ho per il capo, proprio non me la sentivo di sopportare i discorsi di quell'imbecille del piano di sopra», egli disse mentre si spogliava. Ma non aggiunse: «e la compagnia di quell'esosa». Ora, dopo una giornata in cui era riuscita a distrarsi, con la nuova notte Ersilia ritrovò la sua angoscia e i suoi contrastanti pensieri. «Gridi nonno», disse, «prima di venire a letto voglio lavorare almeno un'ora». Metello l'abbracciò, e questa volta lei si lasciò baciare fugacemente, si sfiorarono appena le labbra, egli non manifestò nessuna animosa intenzione. Poco dopo, picchiando col mazzuolo sugli stampini, era idealmente sulla testa della bella Idina che Ersilia colpiva. Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.